imparalo anche tu. Ti metti in pista e poi ti muovi come vuoi. Dipenderà da te se chi ti seguirà farà anche lui il cucù come lo farai tu. Il ballo del cucù di regole non ha, è libero e perciò è anche senza età. Di certo ci sarà chi lo vuol far di più, e giusto in pista c'è chi è proprio un bel cucù. Cucù, entra in pista pure tu. Puoi fare